Euroreportage. Belgrado. Lavori in corso verso l'Europa. Di Claudia Vanni. È strategico per la Serbia entrare a far parte dell'Unione Europea. Questo è il più importante obiettivo di politica estera. Ma abbiamo anche legami storici con la Russia. Non riconosceremo mai il Kosovo come indipendente. Nelle parole del ministro degli interni Stefanovic, questa è la Serbia di oggi. Si potrebbe paragonarla ad una persona dallo sguardo affascinante ma strabico. Uno strabismo di Venere, un occhio che guarda all'Europa e uno che guarda alla madre russa. Non stiamo chiedendo niente per carità o gratis. Stiamo realmente lavorando come tutti gli altri paesi europei per dimostrare che c'è una strada forte di riforme in Serbia. E c'è un nuovo governo che sta lavorando duramente e diligentemente con i partner europei. Crediamo di riuscire a persuadere ogni paese e tutti nella Commissione europea che la Serbia guadagnerà una piena partnership nel 2020. Belgrado è il terreno su cui si gioca la partita della storia internazionale da almeno un secolo. Oggi è il soggetto che potrebbe stabilizzare i Balcani, ma prima resta da chiarire la posizione nei confronti del Kosovo. Per i serbi un'area irrinunciabile, culla della slavità. Per i kosovari uno stato indipendente di matrice albanese. Cerniera tra est e ovest, forse anche per questo, la Serbia si è ancorata nei decenni ad un forte spirito di appartenenza, il nazionalismo serbo. Dalla forma autoritaria ma illuminata, per così dire, di Tito, all'estremismo di Milosevic che ha trascinato il paese nelle guerre dei Balcani. Ora il paese sembra voler andare oltre. Lo stesso premier Vučić, con una gioventù passata tra le fila ultranazionaliste, vuole voltare pagina, come spiega Michael Davenport, ambasciatore a capo della delegazione europea in Serbia. Mr. Vučić said very clearly. Vučić ha detto molto chiaramente che la membership nell'Unione Europea was the number one. È la priorità numero uno e il primo obiettivo politico del governo serbo. Non era stato mai reso così chiaro in un discorso politico. Ma il sentimento etnico non può essere dimenticato, il processo di integrazione, ancor più che a livello politico, deve essere metabolizzato dai cittadini. Ivana Nikolic, giovane giornalista al Balkan Investigative Report Network, il network di reporter investigativi nei Balcani, ci aiuta a capire meglio il contesto. Being a part of the EU means better living conditions. Essere parte dell'Unione Europea vuol dire avere migliori condizioni di vita, così come avere la possibilità di vivere e viaggiare, o meglio di lavorare all'estero. Perché per esempio, se volessi lavorare da qualche parte in Europa, avrei bisogno di un permesso di lavoro che ovviamente costa. Ma forse uno dei problemi che rimarrebbe, un tema caldo, è il Kosovo, perché prima di entrare nell'Unione Europea io credo che il governo serbo in qualche modo deve riconoscere il Kosovo come uno Stato che non è più parte della Serbia. Un passaggio che potrebbe causare scosse di assestamento, quanto accadde nelle strade di Belgrado nel 2008 quando il Kosovo si autoproclamò indipendente, deve servire da monito, ci ricorda Ivana. Furono incendiate l'ambasciata americana e tedesca a causa di questa decisione. Le persone erano molto arrabbiate perché il Kosovo era diventato uno Stato. Quindi, se questo avverrà, se la Serbia dirà ok, riconosciamo il Kosovo, credo che le persone saranno arrabbiate, abbastanza infuriate per questa decisione. Suppongo che andranno nelle strade, ma credo che si spegneranno in pochi giorni. E perché quando hai il governo che ha deciso così, non puoi fare niente per cambiarlo. Basta camminare per le vie di Belgrado per toccare con mano l'orgoglio serbo. A due passi dall'hotel Moskva, in cui negli anni delle guerre balcaniche si tenevano importanti incontri diplomatici, è stato eretto recentemente un monumento a memoria dell'identità serba. A spiegarci di cosa si tratti Noah, uno studente di legge passato di lì per omaggiare la statua. Il monumento dietro di me rappresenta Nicola II, l'ultimo imperatore russo. È stato eretto come simbolo di gratitudine del popolo serbo e della nazione serba verso l'ultimo zar russo, che sacrificò la sua dinastia, il suo trono, il suo intero paese per difendere la Serbia nella prima guerra mondiale. Credo che la Serbia sia naturalmente vicina alla Russia e credo che sia solo naturale avvicinarsi alla Russia, ma non voglio che la Serbia sia integrata alla Russia, come non lo voglio nell'Unione Europea. E spiega. Personalmente sono contro l'integrazione della Serbia nell'Unione Europea. Sono a favore delle migliori relazioni possibili, ma non voglio che questo paese ne diventi Stato membro. Perché ogni paese dell'Unione Europea aveva, ma ha perso la sua sovranità e non voglio che questo accada anche alla Serbia. Lo spettro dell'ultraconservatorismo non se n'è andato del tutto. Lo dimostra l'accoglienza dedicata al leader degli estremisti, Šeše, rimesso in libertà temporanea per malattia dal tribunale dell'Aia che lo processa per i massacri contro croati e musulmani. Ivana ci racconta i dettagli. Un numero abbastanza ampio di persone lo ha accolto nella Piazza della Repubblica, qui a Belgrado. Una cifra come qualche migliaio di persone. Le manifestazioni pubbliche di Šeše hanno causato problemi alla stessa Serbia, colpita da una risoluzione UE. Ma il ministro degli interni Stefanovic risponde piccato. Tutto ciò che ha fatto tornando in Serbia è stato raccontare terribili bugie sulla nostra leadership. E ora c'è una risoluzione contro la Serbia. Io non riesco a vedere nessun link. Dimostra che non tutti in Europa sentono che la Serbia sia un partner e un amico. Ed è giusto per i serbi notarlo. Ma non cambia la nostra posizione verso l'Unione Europea e non cambia ciò che riteniamo di dover raggiungere per la nostra gente. Individuato nel 2003 come potenziale candidato per far parte dell'Unione, ora il processo della Serbia sta avanzando. L'ambasciatore italiano a Belgrado, Giuseppe Manzo, ci rivela un episodio emblematico. È successo un mese fa, il 23 ottobre di quest'anno, un evento storico. Per la prima volta un ministro degli esteri del Kosovo si è seduto al tavolo, lui con qua a Belgrado, intorno allo stesso tavolo con il ministro degli esteri serbo, il ministro degli esteri bosniaco e gli altri i sei della regione. Gli devi riconoscere in qualche modo il merito per tenerlo, come si dice, engaged, cioè per tenerlo ancorato a questo processo. Noi siamo forti sostenitori dell'indipendenza del Kosovo e questo ci dà l'autorevolezza per dire al tempo stesso noi non siamo gli spagnoli non riconosciamo il Kosovo e quindi ti vogliamo fare. Noi siamo quelli che da una parte riconosciamo il Kosovo, dall'altra parte ti diciamo se tu vai avanti su questa strada ti facciamo questo. Se tu invece al processo sostituisci di principio tutto adesso, ponendo sin d'ora, se tu metti le linee rosse della mia esperienza sono quelle che poi alla fine ti costringono a posizioni dalle quali non puoi tornare indietro. Marina Katic, presidente di Youth Wave, associazione studentesca per scambi interculturali con base a Belgrado, racconta apertamente la sua generazione. La sensazione generale sul Kosovo, che ormai l'abbiamo perso, ma dall'altro lato c'è chi crede che non dovremmo rinunciarci. La parte meridionale è la più tradizionalista e non è orientata verso l'UE. Se osservate le città qui in Serbia, vi mostrano una buona immagine di quale sia la nostra mentalità. È un mix tra nuovo e vecchio. Siamo veramente pronti a mescolare il vecchio con il nuovo. Non siamo completamente pronti a dimenticare il nostro passato, ma siamo pronti ad accettare un compromesso. Secondo i dati dell'Ufficio per l'integrazione europea del governo serbo, se nel novembre del 2009 il 73% dei serbi avrebbe votato a favore dell'ingresso nell'Unione europea, oggi il livello è sceso al 46, ma il ministro degli interni dichiara di non temere opposizioni nazionaliste. Of course. Ovviamente non è facile far aderire a degli obblighi, così come quando vai a scuola e non è facile stare seduto e studiare per 10 ore. Quindi forse per qualcuno è più facile dire non voglio entrare nell'Unione Europea, perché questo significa lavoro duro, rispettare certi standard, significa che non verrà tutto facile. Non lo sarà nemmeno per il governo. Per esempio, in termini di popolarità, andremo indietro. Ma se non lo facciamo in pochi anni, dovremo affrontare uno scenario in cui dovremo tagliare salari e pensioni, forse del 50%. Quindi oggi lo abbiamo fatto del 10-15%. Credo che abbiamo trovato l'ultima occasione per imbarcarci sul treno che ci porterà verso un futuro migliore. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.